architettonico perché la sua costruzione dura lungo i secoli, sempre senza essere finita, e quindi presenta uno spaccato bellissimo della storia trentina, e poi contiene dei tesori importanti per quel che riguarda anche proprio le pitture, perché ci sono veramente cose molto belle, c'è questa, soprattutto questa si chiama torre, che ha un ciclo d'affreschi profani molto importante, le stagioni, di pittore boemo, e poi anche le sale sono affrescate da importanti pittori italiani e tedeschi dell'epoca che oggi noi in questi giorni trattiamo solo di sfuggita, ma è in fondo l'epoca appunto rinascimentale, misteriosa, di uscita dal Rinascimento, del primo manierismo e così via. Quindi merita di essere visitato anche il Castello del Buonconsiglio. Noi però abbiamo preferito non fare una visita guidata di gruppo, perché sarebbe una cosa troppo... la vacanza deve essere vacanza, quindi cioè, il pomeriggio è libero. Diciamo solo che siccome il Museo del Buonconsiglio, del Museo del Risorgimento è nel Palazzo del Buonconsiglio, e comunque alle 5:30 noi ci troviamo al Museo del Risorgimento, prima, per chi crede, volontariamente, c'è la possibilità di visitare l'intero palazzo. Noi avvertiremo appunto il museo che probabilmente qualche nostro ospite andrà lì, e quindi voi sarete accolti bene, e così. Questo è quanto volevo dire. Per il resto, adesso è ora di, forse non so se il professor Lewandowska crede di dire... No. Ma hanno capito tutto anche i tedesco parlanti, credo. No? Ja. Ich glaube, heute der Besuch, und ich kann es nur sehr empfehlen, allen denen, die es nicht kennen, deutscher Sprache, in das Castello del Buon Consiglio zu gehen, und zwar vorher schon, eben für diese Bilder in der Torre dell'Aquila, die sind also diese Monatsbilder, ich glaube, es sind, ja, es sind Monatsbilder von diesem unbekannten böhmischen Maler, Spätmittelalter, 300, fine 300, primi del 400, credo. Das ist wirklich ein einzigartiger Schatz, und auch sonst ist das Museum, ist der Palazzo sehr interessant, und das Museum del Risorgimento auch. Ich kann leider auch erst nicht von Anfang an dabei sein, aber ich möchte dann auch hinkommen. Posso anche venire, io verrò un po' più tardi, allora vi troverò lì. Cioè c'è un grande segno al Museo del Risorgimento, fuori. Cioè, si vede benissimo dov'è, insomma, ecco, nell'ambito del castello c'è un enorme segnale molto decorativo che richiama l'attenzione subito. È inutile che vi dica dov'è. Perché... Museo del Risorgimento e della lotta per la libertà. Si vuole nel suo quando è aperto? Nel pomeriggio è comunque aperto. Nachmittag. No. Si chiude alle 5:30 proprio quando noi andiamo. Che è il museo. Al palazzo. Tu mi hai detto che avevi esca in... Cioè, manca sempre qualcosa nella nostra, cioè nella mia capacità di organizzazione. No, ma questo si può, il tentativo di lasciare un minimo alla fantasia e al caso. E sia ungefähr bis gegen 3. Quando viene l'autobus oggi? Ecco, quando viene l'autobus oggi? Viene circa quando abbiamo finito di mangiare. Circa, ecco, verso le 3. Allora, 2:30. Abbiamo dann runterkommen. Da, io sono sicher offen. Mi vergogno molto, perché mi sembra di essere sempre molto preciso e organizzato, ma di fronte alla precisione tedesca invariabilmente crollo. Quindi, scusate. No, ma qui funziona tutto sempre molto bene sulla vostra organizzazione. Devo, questo lo posso dire perché io non ho nessun merito. Das möchte ich dann auch den deutschen Kollegen sagen, es klappt immer alles, es schaut nur so aus, als am Anfang, als ob es nicht klappen würde, aber es wird dann alles organisiert, gefunden, es ist alles chaotisch, tutto Das ist nur eine Einbildung, dass nur die Deutschen organisieren können. Im Gegenteil, die überorganisieren manchmal. Das ist ein Miet. Ja, die Italiener schaut so aus, als ob sie es nicht machen würden, aber auch bei Reisegesellschaften und so weiter habe ich immer festgestellt, Gottes Willen, die Koffer sind weg und dann sind die Koffer schon in Wirklichkeit im Hotel, wo man hinkommt, da hat dann jeder auf seinem Zimmer die Koffer und so weiter. Das ist immer bei den Italienern großartig organisiert. Molte grazie. Allora, questa mattina abbiamo il professor Albano Biondi dell'Università di Bologna, il quale doveva parlare lunedì pomeriggio, invece parla oggi su questo tema, il Medioevo e Cesare Balbo. Quindi ritorneremo a recuperare tematiche già affrontate in qualche misura, sfiorate nella prima giornata. Quindi bisogna che facciamo uno sforzo di recupero e di congiunzione anche per quel che riguarderà la discussione. Credo che appunto dovremo richiamare cose che durante la giornata di ieri, di tenore più letterario e artistico, forse sono state messe un po' in disparte. Dopo avremo la dottoressa Laura Moscati, che parlerà invece su appunto la recezione, le fonti giuridiche dell'Alto Medioevo tra Italia e Germania. E invece avremo ancora una terza relazione che qui non è annunciata, ma di cui avevo dato notizia lunedì, della dottoressa De Pascale sulla Politische Romantik. Quindi adesso prego il professor Biondi di prendere la parola. Care signore, signori, amici, dopo l'atmosfera festaiola evocata, anzi invocata da Pierangelo Schiera, credo che mi corra l'obbligo di chiedervi scusa per l'esercizio di pazienza a cui mi appresto a sottopormi. Tuttavia, hic rodus, hic salta. Tentiamo di affrontare questo argomento che ha finito col diventarmi particolarmente complesso, soprattutto perché ho tentato in apertura di fare un bilancio delle cose che si sono dette a partire da lunedì. Ho riscritto in parte la relazione che io avevo preparato in precedenza, sottoponendomi ieri a un duro esercizio, di cui eccovi i risultati per quello che sono. Nelle discussioni che hanno sviluppato i temi, in particolare della prima giornata, la città italiana, la cavalleria, il Reich e la nazione, abbiamo visto emergere insistentemente, come una pressione non eliminabile, il discorso sul metodo della nostra disciplina. Questo, in realtà, cioè l'emergenza di questa esigenza di metodo, è nella natura dell'argomento generale che è stato indicato come cornice della discussione, che esige si affrontino immagini, modelli e miti. I termini sono sufficientemente parlanti e sono carichi di esigenze metodologiche. L'immagine rinvia a ciò che è immaginato, il modello a ciò che è modellizzato, il mito a ciò che è stato trasformato in un'idea forza. Ora, il referente di tutti questi rinvii è pur esso indicato nel titolo del seminario, Due popoli nell'Ottocento. Germania e Italia. Si tratta di due popoli legati da forti analogie di destino storico che nel corso dell'Ottocento, ciascuno nei propri modi, hanno percorso un cammino effettivamente analogo in direzione dell'unità politica. Ebbene, fra le analogie del percorso dei due popoli, ce n'è una, mi pare, di natura squisitamente culturale e sta nel fatto che le élite che guidarono il percorso verso l'unità in entrambi i paesi erano fortemente impregnate di cultura storica ed abituate a cercare nella storia passata impulsi di ogni genere in servizio del presente e del futuro. Quanto più forte era il divario fra realtà e progetto politico, tanto più intenso il bisogno di cercare nel passato, perché questa era la forma mentis culturale predominante, il bisogno di cercare nel passato le ragioni che permettessero di aggredire il presente. Da qui il tono appassionato, severo, impegnato della storiografia di entrambi i paesi, almeno sino all'avvento del positivismo, che cambiò parzialmente le regole del gioco, i protocolli, le procedure della disciplina. Vi prego di ripensare alla relazione con cui il professor Tabacco ha aperto i nostri lavori. Ricorderete, quella relazione è tutta tramata, tessuta, minuziosamente articolata, mi pare, sulle relazioni che legano l'indagine e più in generale la cultura storica dell'Ottocento italiano ai bisogni politici, concordi o conflittuali, della società italiana. È una descrizione, a mio parere, del tutto corretta di una situazione storiografica. E tuttavia l'immagine si può articolare. Se costruiamo un modello di approccio che, tenendo conto delle precondizioni ideologiche della ricerca storica, presti altrettanta attenzione ai materiali che essa elabora e alle regole del gioco, canoni, protocolli che essa assume o con cui si vincola. Prospetto un modello di contatto triarticolato con il materiale della storiografia del primo Ottocento. L'obiettivo del modello non è chiaramente il discorso scientifico puro, questa utopia, è piuttosto un ideale equilibrio tra variabili che non è possibile eliminare, sicché un discorso storico forte è un discorso che contempera in maniera forte queste variabili, le tre variabili che ho descritto. Qui finisce, valga quello che valga, la premessa di metodo su cui si potrà discutere. Potrei dire che ho descritto la griglia con cui mi sono avvicinato all'opera di storico e pubblicista di Cesare Balbo, nato nel 1789, gentiluomo piemontese formatosi nel tempo del grande sommovimento napoleonico, estromesso dall'attività politica diretta per il suo coinvolgimento, sia pur riluttante e in posizioni di freno, nel moto Carlo Albertino del 1820, primo ministro costituzionale di Carlo Alberto durante tre mesi del 1848, traumatici, perché insomma uomo d'ordine com'era si trovò a dover fronteggiare la piazza ingovernabile, poi nel Parlamento subalpino, in posizione come egli si definiva di monarchico cristiano, sospettoso della politica ecclesiastica di Camillo Cavour, e poi la morte improvvisa nel 1853 a 64 anni. Questo è l'essenziale per la sua biografia. Aggiungerò, se mi passate l'impressionismo della notazione, una citazione che mi pare emblematica del suo, direi del suo ethos. È questa, dal sommario della storia d'Italia. Il mondo va innanzi a forza di vite umane sacrificate. Una vita divina e umana sacrificata è il più grande fatto della storia umana. Una intera metà del genere umano, quella che chiamiamo la debole metà, fa il sacrificio della vita continuamente per noi. Senza un sacrificio uguale, senza il compenso della guerra principalmente, la viril metà rimarrebbe inferiore a quella chiamata debole. Non compenserebbe sacrifici con sacrifici, non darebbe vita per vita a quelle dolci creature che gliela offrono ogni dì. C'è da riflettere. Sono parole che contengono un tempo, una sensibilità particolare circa i rapporti uomo-donna, ma anche una dura etica sacrificale, fondata sul sacrificio del Cristo, il più gran fatto della storia umana. E si noti che sono parole scritte in riferimento a un lutto familiare, in riferimento al figlio Ferdinando, morto combattendo gli austriaci in Lombardia nella splendente primavera del 1848. Il testo dice anche: certo che le vite degli uomini sono un granché, ma in guerra, ma là dove il sacrificio della vita è volontario, legittimo, bello e santo, egli è pur talor felice a chi il fa e sempre alla patria per cui si fa. Queste parole colpirono Walter Maturi, che trovava non pochi punti di analogia fra questa morale del sacrificio e la morale di un uomo che, a cui Balbo dedicava solo sgradimento e antipatia, Giuseppe Mazzini. Ho insistito impressionisticamente su queste citazioni perché fra le precondizioni del lavoro storico quella precondizione che si chiama l'ethos individuale dello scrittore è certamente da contare fra le variabili. Noi possiamo essere molto lontani da questo tipo di sensibilità. Questo elogio del morire in guerra o della guerra che deve essere, che è necessaria all'uomo per compensare in parte ciò che gli danno, ciò che gli dà l'altra metà, ciò che gli danno le donne, queste cose noi possiamo trovarle stridenti, ci sanno di forte agrume, ma tant'è, per una delineazione della fisionomia dell'uomo di cui adesso esamineremo l'opera storica, mi pare che fare il punto su dove egli stava come sensibilità, come etica, come impegno morale, sia importante agli effetti proprio della conoscenza della sua posizione storiografica. Vorrei anche aggiungere che quella definizione del sacrificio del Cristo come il più grande fatto della storia umana la ritroveremo come elemento strutturante nella filosofia della storia di Cesare Balbo. Ed ora volgiamoci al Balbo, scrittore di storia e di una pubblicistica di impegno politico fortemente intessuta di motivazioni storiche. Nella vulgata opinio, mi pare, Balbo è, insomma, storico di un sol libro, il sommario della storia d'Italia del 1846. In realtà, egli può vantare, anche come storico, potremmo dire in senso tecnico professionale, una titolografia di tutto rispetto, a partire dalla sua prima opera significativa edita, La storia d'Italia sotto ai barbari, Pomba, Torino, 1830. Io ho allineato qui 18 titoli che rappresentano la produzione storiografica o di pubblicistica legata alla storia di Balbo, che naturalmente vi risparmio, salvo a citarli, salvo a rinviare, a fornire l'indicazione precisa, quando prenderò in esame alcuni di essi. Direi che, per dare però una indicazione di massima, che di questi scritti alcuni hanno la caratteristica proprio di scritti di tecnica storica, per esempio le rassegne. Non so, nel 1847 pubblica un degli studi di storia italiana, che è una recensione, un compte rendu delle notizie bibliografiche, dei lavori spettanti alla storia italiana, alla storia politica, ecclesiastica e letteraria d'Italia, pubblicati in Germania. Uno scritto di Alfred Roymont che il Balbo analizza e utilizza a suo modo in maniera molto attenta. La prima opera di Balbo, uscita per le stampe dunque, con dedica al padre, al conte Prospero Balbo, ministro di Stato, presidente della Regia Accademia delle Scienze, una dedica datata Torino 2 luglio 1830, questa prima opera è La storia d'Italia sotto ai barbari. Nell'edizione nazionale delle opere di Cesare Balbo, pubblicata a partire dal 1853 dall'editore Lemonnier di Firenze, quest'opera è un volume di 500 fitte pagine. La dedica presenta il libro come primo avvio di un progetto di storia d'Italia, anzi, per essere precisi, di storia moderna d'Italia, in 13 libri. Ed apprendiamo subito che nella periodizzazione di Balbo la storia moderna va dal 476 al 1789 e che la partizione medievale sparisce. In un certo senso noi abbiamo intitolato Cesare Balbo e il Medioevo, ma nelle categorie della periodizzazione balbiana della storia il Medioevo non appare come categoria forte e motiveremo poi per quale ragione. Intanto prendiamo atto di questo fatto che la storia dal 476 al 1789 è storia moderna. Il progetto di questa storia è un progetto in 13 libri, un progetto che, diciamolo subito, non venne mai attuato. o, se vogliamo, venne attuato nella maniera concisa e stringente del sommario, ma è un'altra cosa rispetto allo stile di questa prima opera. L'opera è divisa in due libri, libro primo, Odoacre, Goti, Greci, libro secondo, continuano i Greci e arrivano i Longobardi. Un seguito, col titolo Il regno di Carlo Magno in Italia, fu pubblicato postumo da Carlo Boncompagni nell'edizione nazionale delle opere nel 1862. Contiene quelli che dovevano essere 14 capitoli del libro terzo di questo progetto di storia d'Italia in 13 libri. E si può considerare un seguito anche il discorso sulla storia d'Italia da Carlo Magno sino ad Ildebrando, sebbene si tratti solo di una sintesi che abbandona il ritmo annalistico della storia d'Italia sotto i barbari. Il libro quarto del sommario della storia d'Italia può essere letto come riassunto di questi primi lavori. Allora, fissiamo bene in questi punti. Storia d'Italia sotto i barbari, 1830, parziali prosecuzioni di un'opera che nel suo complesso non vide mai la luce, con il regno di Carlo Magno, con il discorso sulla storia da Carlo Magno ad Ildebrando, sintesi di questi materiali, ma diventano altra cosa, nel libro quarto del sommario della storia d'Italia. È su... Che è invece del 1846. Sì, è invece del 1846. Ecco, potremmo dire che un percorso sul Medioevo delineato da Balbo si può compiere agevolmente seguendo questo filo. Fermiamoci ad esaminare lo stile storiografico di Balbo in questa sua prima manifestazione di rilievo. Il tema è quello dei regni che egli definisce romano-tedeschi. Cito: i barbari invasori dell'imperio furono quasi tutti di quella nazione che chiamò e chiama se stessa dei Deutsch, che i romani chiamarono primamente teutoni e poi germani, e noi chiamiamo tedeschi. Egli è al corrente delle discussioni sulla appartenenza etnica dei Goti. Molto si disputa a qual famiglia di genti appartenessero, se a quella dei Geti o degli Sciti o dei Germani, e per conto suo opta per la germanicità. Descrive con attenzione e mostrando di essere aggiornato sulle dispute filologiche e terminologiche le istituzioni barbariche a partire dalla Germania di Tacito. Indica nei malli o conciglia o placita o campi di maggio o di marzo l'origine indubitata dei parlamenti moderni. Questo è importante, anche se in seguito Balbo modificherà alquanto la sua posizione. Nell'ultimo capitolo, dedicato alle leggi dei Longobardi, si trova un interessante ragguaglio critico sulla questione dell'origine dei municipi e degli statuti cittadini. Questi sono, in breve riassunto, i materiali che Balbo organizza in un percorso narrativo. La traccia di questo percorso è quella fornita da Ludovico Antonio Muratori, cui si rende omaggio nel capitolo primo intitolato Ragione dell'opera, con parole che devono richiamare la nostra attenzione. Dice dunque: la storia critica d'Italia è fatta già dal Muratori, tale che nient'altra nazione ha la pari, e che gli studiosi delle cose nostre avranno sempre a ricorrere a quella. Tuttavia un poco rimane da correggere o raccogliere dietro lui. Né questo era intento mio. Io vorrei riordinare ciò che i raccolse, far volgare appresso al comune della gente ciò che fece appresso ai dotti, e lasciare in mano agli italiani d'ogni condizione o provincia una storia d'Italia, o almeno una prova di essa, quale è possibile farsi da me. E continua parlando della storia come di un, potremmo dire, genus mixtum, come di un genere composito fra arte e scienza. La storia è arte, e in quanto artista lo storico è esattamente nella posizione del drammaturgo o del romanziere o del poeta. Quello che ha fatto esiste come cosa compiuta in sé ed è suscettibile di un giudizio di valore come quello che si dà per le opere d'arte. Ma la storia è anche scienza, e da questo punto di vista non è chiusa in sé. L'apporto di ogni storico concresce con gli apporti degli altri storici, e quindi delinea questa specie di doppia posizione dell'opera storica, come prodotto in sé compiuto, opera d'arte, e come tessera di una grande opera in costruzione da più mani, il lavoro complessivo degli storici, e come tale richiede criteri di valutazione diversi. Circa la espressione drastica, la storia critica d'Italia è fatta già, circa l'assunzione ingenua a critica del Muratori come punto d'arrivo insuperabile della storia intesa come ricerca e discussione di documenti, perché questo vuol dire nella sua terminologia storia critica, su questo punto il Balbo articolerà pian piano il proprio giudizio anche a seguito dello scambio filologico detti in maniera un po' assiomatica, sono questi. L'espressione medioevo è negli scritti di Balbo un'espressione residuale. Di fatto la sua visione della storia esclude una periodizzazione che implichi un concetto forte di medioevo. Qui il medioevo di Cellarius è non c'è. Se vogliamo ricollegarci agli studi di Falco, la polemica del Medioevo, qui il Balbo per questo aspetto va ricondotto alla tradizione della storiografia teologica. Baronio non ha Medioevo, Balbo non ha Medioevo, diciamo in questi termini rapidissimi. Punto 2. Balbo ha una visione della storia, o meglio, Balbo sviluppa e tematizza progressivamente nelle meditazioni e nei pensieri per la storia d'Italia, e poi insistentemente ne fa punto di riferimento anche nella discussione pubblicistica, una visione della storia a due stadi: prima della venuta del Cristo, dopo la venuta del Cristo. L'abbiamo già visto, vero? Già, questo già dagli inizi, per lui la storia dal 476 era storia moderna. Adesso fonda teologicamente questa distinzione portando a coincidere l'inizio della storia moderna con l'anno della nascita di Cristo. Esiste una storia antica ed esiste una storia moderna. I due stadi sono caratterizzati poi come storia regrediente, un regresso continuo dalle origini alla nascita di Cristo, una sorta di discesa all'Ade, sino a Cristo, il punto basso della storia universale, ma nel medesimo tempo il punto d'avvio. È il discrimine. Quindi questo permette a Balbo di fare una operazione che si può descrivere così. Assume di fronte alla settecentesca e laica teoria del progresso una posizione che distingue. Contro il progresso perpetuo di Turgot, di Condorcet, di D'Alembert, eccetera, sono questi i suoi idoli polemici, egli oppone, no, non progresso perenne, regresso dall'origine dell'uomo sino a Cristo, progresso da Cristo in avanti. Dall'avvento di Cristo è cominciato un movimento irreversibile in positivo. Quantunque non sia un movimento lineare, ma Balbo ricorre all'immagine della spirale, ma spiraliforme. La spirale che ad ogni giro sembra retrocedere e avanza è per Balbo la figura del progresso cristiano come egli lo concepisce. Si potrebbero a questo proposito leggere le lettere a Cesare Cantù in cui spiega la sua contrapposizione fra la contrapposizione che egli ha istituito fra tempo ciclico del mondo antico e sì, l'immagine del ciclo per il mondo antico e l'immagine della spirale per la storia moderna. Assunto dunque che l'avvento del cristianesimo e della società cristiana nata in verità e virtù ha introdotto nel mondo un'invincibile energia del bene, un'indefettibile possibilità di virtù, sono sue espressioni, il problema della storia diventa quello della resistenza al bene, che è come dire quello della inerzialità del male. E qui ci sono teorie ad hoc per ogni epoca storica, ma per esempio dal 400 in avanti il male è descritto come ritorno di situazioni pregresse, restaurazione del passato pagano. Valga come esempio il cammino della filosofia. Dal 500 all'800 il progresso, il movimento della filosofia è presentato come viziato in radice dall'essere null'altro che restaurazione della filosofia pagana. Fa venire in mente la polemica contro i filosofi antichi di Gianfrancesco Pico della Mirandola nel primo Cinquecento. La vanità della filosofia antica è per Balbo un dato. In questa prospettiva dunque viene obliterato il Medioevo della costruzione diciamo protestantica, illuministica, Medioevo, sì, umanesimo, protestantesimo, illuminismo, il Medioevo come disvalore, e viene obliterato pure il nesso umanesimo-rinascimento-riforma come valore. Il movimento spiraliforme del progresso in Balbo segna altrove le punte di avanzamento e di retrocessione. Per esempio, c'è un avanzamento nell'età di Carlo Magno, ma diciamo un avanzamento condizionato, una ripresa della cultura e dell'organizzazione ecclesiastica, bene, ma c'è per Balbo, questo è da tenere presente, la negatività costituita dalla fondazione del Sacro Romano Impero, che per Balbo è una iattura della civiltà cristiana per un verso e delle libertà nazionali per l'altro verso. Quindi a questo duplice titolo si è innescato il processo per cui l'impero ha tentato di subordinare a se stesso la Chiesa. Si è innescato il processo per cui le nazioni sono state inserite in questo sovrastato che è l'impero. Ecco, per questo duplice ordine di ragioni, Balbo vede nell'epoca di Carlo Magno un avanzamento di cultura, ma, per usare una sua distinzione, un regresso di civiltà, perché lui distingue tra cultura e civiltà, e vedremo meglio in seguito. Carlo Magno, ricorderete, è paragonato, si ricorderete anche dal sommario, è paragonato a un marajà indo-asiatico, ed è detto con molto disprezzo, colpevole di un sistema che compresse autonomie e nazionalità. Parliamo di miti, i miti del Medioevo, questo è il mito medievale di Cesare Balbo. Questa età di Gregorio VII e dei comuni, che egli considera non solo il momento alto della storia d'Italia, ma in quanto momento alto della storia d'Italia iniziatrice di civiltà, momento assiale della storia d'Europa e della storia del mondo. Questa fu la vera rivoluzione. Fu, egli dice, tumultuaria, violenta, senza dubbio, ma pur mista di idee, figlia e madre di un'idea grande e nuova, l'eguaglianza, la quale, figlia essa stessa del cristianesimo, maturata da quasi 11 secoli cristiani, da allora si impose incorporata, armata, potente nelle nostre istituzioni. Questo è il mito della età assiale. Vorrei dire che si potrebbero sovrapporre un'infinità di testi di Balbo su questo punto, perché usa poi abbondantemente nella pubblicistica, vedremo qualche cenno in seguito, questo riferimento all'età assiale. Tante formulazioni, ma il concetto è questo che abbiamo detto. Aggiungerei solo una cosa. E spesso con un linguaggio che richiama mistici del Cinquecento, Balbo definisce questo secolo undecimo l'età della grande restituzione, restitutio magna, e tende poi a comporre il 1848 in un certo momento come inizio di una nuova restitutio. Termine restitutio si giustifica in questo senso, che ognuno di questi momenti è riattivazione dell'esplosione e di energia iniziale introdotta nel mondo dall'avvento del Cristo. E poi regresso, nella spirale, quando l'infatuazione per gli antichi, e a questo proposito bisogna che ricordiamo che Balbo è antiromano, considera l'impero romano pressappoco negli stessi termini in cui considera il restaurato sacro romano impero, e allora descrive l'umanesimo sostanzialmente come un'epoca di cultura degenerata, perché l'infatuazione per gli antichi va di pari passo con la decomposizione della libertà comunale, con l'assoggettamento della nazione italiana agli ultramontani e l'attacco alla Chiesa portato dalla falsa riforma. Anche i passi di Balbo sulla riforma, il suo giudizio pesantemente negativo sulla riforma, si moltiplicano di opera in opera. Per esempio, nello scritto delle rivoluzioni del composto nel 1850, pubblicato postumo, si esprime così sulla riforma: la gran rivoluzione religiosa della riforma, gli amici di lei le dan vanto, i nemici taccia di essere stata seme delle rivoluzioni del secolo nostro. Vanto e taccia sono giusti, bene e male delle rivoluzioni nostre vennero dalla rivoluzione religiosa del secolo XVI. Ma i beni vennero solo per contratto, egli dice, giacché in sé quella rivoluzione fu una sciagurata rivoluzione. Introdusse divisione del bel corpo della Chiesa, divisione della civiltà cristiana, ritardo evidente del progresso di questa civiltà che si arrestò allora e rimase almeno stazionaria per un secolo e mezzo, e così via. E si dà a ipotizzare che cosa avrebbe potuto essere la storia d'Europa se non fosse stata la divisione religiosa. E così via. E su questo punto basta, salvo a chiarimenti nella discussione. Sto andando fuori. Tu stai approfittando del fatto che non c'è Poggiorezze, che è rigidissimo sui 45 minuti. Quindi tieni conto che bene, la bontà è sovrumana. No, aggiungo semplicemente questo. I sintomi dell'avvio in positivo sono questi tre: la resistenza di Pio VII alla prevaricazione imperiale napoleonica, il concordato napoleonico tra Stato e Chiesa, la pubblicazione dello Génie du Christianisme di Chateaubriand, che determina, cioè che segna il rovesciamento degli orientamenti nella cultura, l'evoluzionismo cristiano di Cuvier, che segna il cambiamento degli orientamenti nella scienza. Col 1801 si è iniziato un periodo positivo della civiltà cristiana, per cui si possono prevedere, diciamo, magnifiche sorti e progressive. Balbo vede la civiltà cristiana proiettata con le forze del vapore, del commercio e, in caso di necessità, dei cannoni sul mondo intero, che ancora non è uscito dalla storia antica. Si prospettano davanti il mondo musulmano, il mondo indiano, il mondo cinese. Su questi l'Europa proietterà ormai le proprie forze, trasportata dall'invincibile progresso economico. E qui un'altra delle cose sconcertanti, ma lo spiritualismo di Balbo si trasforma in questo punto in una entusiastica serie di pagine, mi riferisco alla meditazione quindicesima, dedicate agli interessi materiali, alla potenza creativa degli interessi materiali. L'Europa proiettata sul mondo. L'Europa che porterà il mondo dalla storia antica alla storia moderna. Su questa strada il mondo verrà spinto a forza, spinto nella modernità, dall'energia dell'europeo, cristiano, borghese e conquistatore, guidato dall'Inghilterra costituzionale e cristiana, col solo difetto di non essere cattolica, ma c'è speranza. Ecco, io mi fermo qui nella mia esposizione. Ho spostato l'accento da una linea di lettura di Balbo, letto, diciamo, a partire dal sommario della storia d'Italia, progettando una lettura di Balbo letta a partire dalle meditazioni e dai pensieri sulla storia d'Italia. E allora, nello scritto, voi troverete articolato un po' di più il discorso, ma intanto perfetto. Sono qui. Danke, Herr Professor Biondi, sehr herzlich. Und ich glaube, es ist nicht notwendig, eine übersetzte Zusammenfassung zu geben, da Professor Biondi wirklich vorbildlich war in der Deutlichkeit und Langsamkeit oder in richtigen, justa misura. Ich glaube, wir brauchen ihn nicht übersetzen oder ist irgendjemand irgendetwas unklar geblieben? Oder ergibt sich jetzt schon eine Frage, die also eine Übersetzung einzelner Termini erfordert? Oder ist das alles klar gewesen, auch für die deutschen Borsisti und deutschen sprachigen Teilnehmer? Im Wesentlichen, glaube ich, der klare Weg ist gezeichnet worden, dieses Historikers, der vom Muratori ausgeht, der sehr stark dann von der Belebung des, um mit Meinecke zu sprechen, des Historismus, der Anfang des Historismus am Beginn des 19. Jahrhunderts beeinflusst ist, von italienischen, von französischen, von deutschen Werken, also Heinrich Leo, Wieso und so weiter, und der schließlich zu einem katholischen Bild des den katholischen Fortschrittsgedanken eigentlich kommt, der schließlich zum Schluss ja in der Bejahung der modernen Welt, der modernen Kultur geradezu als vorbildlich für England dasteht, das, der Fortschritt letztlich Europas. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist alles klar geworden. Ich glaube, wir können. Allora io proporrei di fare subito una discussione, di aprire subito la discussione sulla relazione del professor Biondi, perché questa relazione probabilmente si distacca un po', anche se poi avrà punti in comune, con le due successive, sulle quali invece probabilmente faremo una discussione comune alla fine. Adesso farei quindi una discussione sulla relazione di Biondi, poi facciamo una pausa e poi dopo riprendiamo quelle altre due relazioni che saranno anche più brevi e poi faremo una discussione su quelle altre due relazioni. Aperta la discussione adesso sulla relazione Biondi, poi sotto Tabacco subito. Qual è il raccordo, posto che ci sia concettuale, tra il mito del risorgimento italiano, specificamente nazionale, e questa visione, alquanto mitologica anch'essa, di carattere universalista? Questo forse die Frage ist, klar, es ist die Frage, welche Beziehung besteht zwischen dieser großen Weltschau Balbos und dem besonderen Anliegen des italienischen Risorgimento. Io formulerei la connessione così, molto brevemente. Il lamento sulla perduta libertà d'Italia, la descrizione della storia come storia dell'illibertà, della lunga illibertà di secoli dell'Italia, dà adito a poco nella mente di Balbo a questa convinzione che la possibilità di risolvere la situazione italiana come la situazione di altre nazioni oppresse sta nella assunzione da parte dell'Europa cristiana, qualora l'Europa cristiana diventi pienamente consapevole dei suoi valori, sta nell'assunzione da parte dell'Europa cristiana della volontà di, come dire, risanare le situazioni dolenti al proprio interno per proiettare poi all'esterno la propria energia così liberata. È molto mitologico, ma è questo. Le speranze d'Italia di Cesare Balbo, in sostanza, danno una linea di questo genere. Solo che il discorso finisce con l'avere un qualche interesse, perché viene articolato in questa prospettiva generale. L'idea di una società che ha, come dire, incorporati in sé i propri meccanismi di perfezionamento, porta Balbo a concludere che in questo rilancio dell'Europa cristiana, come dire, si svilupperanno consapevolezze tali e quindi atteggiamenti politici tali da dare la libertà sostanzialmente ai popoli oppressi, no? Ma la domanda è un pochino diversa. Nesso, tu dici fra... Perché questa Europa deve procedere attraverso un risveglio o una costruzione, nel caso specifico dell'Italia, di uno Stato nazionale italiano che c'era mai stato? Il nesso fra il concetto di nazione e questa idea universalistica dove francamente le nazioni non appaiono. Sì, ma io devo dire che Balbo, letto su questa prospettiva delle meditazioni storiche e anche dei pensieri sulla storia d'Italia, non appare fortemente marcato dal punto di vista nazionalistico. Sono convinto che il sommario della storia d'Italia, che è una specie di lungo interminabile scongiuro evocativo di una divinità che non c'è, cioè dell'indipendenza, il sommario per la storia d'Italia è parzialmente significativo della posizione complessiva di Balbo ed ha creato sulla sua posizione storiografica una impressione che è troppo esclusivamente condizionante. Se noi assumiamo questo discorso, che ciò che è valore è la civiltà cristiana europea complessivamente, il discorso delle nazionalità perde rilevanza. Rimane il discorso del primato morale e civile degli italiani. Come tu sai, Balbo ha scritto in termini di contenimento di questa sorta di delirio giobertiano, ne ha ridotto la punta ipernazionalistica, è stato sempre cauto sull'idea di parlare di primato, retroiettando il primato. C'è stato un momento in cui c'è stato il primato dell'Italia, il periodo assiale, il secolo XI. rimane un primato dell'Italia, in quanto l'Italia è la sede della cristianità, che è il cuore della civiltà europea. Al di là di questo, a me pare che la tensione nazionalistica di Balbo sia assai contenuta. In sostanza, sì, lui ammette che ci sono situazioni in cui l'andamento della storia, se possiamo usare questo termine che lui usava, che il Troia gli rimproverava, ci sono momenti in cui l'andamento della storia va sollecitato, il 48 è uno di questi momenti, però la infatuazione nazionale mi pare che nel Balbo sia contenuta. È una revisione grossa. Come conclusione direi che francamente non c'è nesso tra le due cose, a parte il fatto molto opportuno del ridimensionamento dell'idea patriottica nazionale di Balbo. Balbo imperniata sull'importanza della divulgazione che allora il sommario d'Italia. Certo, questo c'è indipendenza tra i due, tra la sua visione, come appare nelle meditazioni, e quel suo impegnarsi in qualcosa che lui recepisce forse dall'esterno, cioè queste idee nazionali, questi momenti nazionali, che lui accetta constatando, sì, ma che non scaturiscono affatto, non è come il solito Mazzini che c'è la preoccupazione di si trovare di nazionali, non dire una moltiplicità di nazioni che provvidenzialmente hanno dei compiti di se niente. No. Da questo punto di vista la visione di storico della civiltà di Balbo è una visione, se la andiamo ad analizzare da presso, piuttosto costretta, compatta e che lascia lascia adito ad un respiro molto minore che non le prospettive mazziniane delle nazioni concorrenti a. Qui in sostanza l'accento sta su quello che noi abbiamo dato un certo tempo all'Europa e poi i continui moniti agli italiani, passiamo alla pubblicistica, perché non si illudano, non si riempiano la bocca con con storie di primato, con superbie, con borie nazionali. Il fatto è che bisogna aprirsi all'Europa, secondo lui. Questo lo ha detto come lettore attento di opere storiche e lo dice anche come uomo politico. Ci sono altri, ecco, allora Cardini subito, professor Cardini. La domanda è molto marginale rispetto a questi problemi che sono stati centrali. Poi probabilmente scoprirà la mia colossale ignoranza su questioni di Balbo e su Balbo, ma riguardo io ho letto pochissimo. Nella parte iniziale della relazione, quando appunto si faceva riferimento proprio all'etica sacrificale, in particolare all'elogio del morire in guerra, eccetera, mi è sembrato di cogliere, ma ripeto, sono letture fatte per altri motivi e per me anche molto al passato, mi è sembrato di cogliere temi addirittura delle citazioni implicite, ma non so in quanto nello stesso Balbo questo fosse presente fino a che misura, proprio di un autore che invece poi non hai citato e che, io dicendo questo probabilmente sfondo una porta proprio spalancata, non so quanto invece contasse, positivo o negativo, nella formazione di Balbo. Certamente gli esiti propriamente sul piano della filosofia della storia balbiana sono lontanissimi da quelli dell'autore che sto per ricordare, che naturalmente è Demestre, in particolare è il Demestre delle pagine dedicate alla guerra come sacrificio, eccetera, nelle serate, ecco, non è semplicemente una curiosità mia, che è molto marginale. Sì. Sì, sì, e a me ha colpito in queste parole la forte impronta personale, la commozione, il riferimento alla situazione dell'uomo che perde il figlio in guerra e tuttavia dice. Certo, la posizione fa pensare, la posizione, non la formulazione, non fa pensare alla posizione del Demestre e ai funesti elogi delle varie forme di violenza che il De Mestre ha elaborato. Io non, sì, credo che lì il Balbo lo conoscesse, l'ambiente piemontese era tale che io credo di aver incontrato anche qualche citazione, qualche rinvio a De Mestre e così via. In questo momento non ti potrei essere preciso. La consonanza tematica comunque c'è, la consonanza tematica. Fermo la smentita, sì. Io chiedevo a questa signora. Prego. Allora, non ricordo però ancora. Forse una cosa che mi è sfuggita, il problema della spirale e della spiraglia è così, questa spiraglia sembra soltanto andare giù e su, e per Balbo la storia sembra andare giù e su, e c'è uno sviluppo continuo anche, sì. Forse una cosa che mi è sfuggita. C'è uno sviluppo continuo. Balbo definisce se stesso in un certo punto un migliorista. Le parole non si inventano mai. Definisce se stesso un migliorista. E lui in sostanza ha questa visione. Esiste il cristianesimo come societas perfecta ed esistono le cristianità. È una distinzione che io credevo, avevo imparato quando ero giovane nella teologia della storia di Danielou. Ma la distinzione è chiarissima in Balbo. Esiste il cristianesimo come societas perfecta ed esistono le varie cristianità come societates perficiende, società da perfezionare via via. E quindi c'è questa in termini logici non si sa come si possa sostenere a fondo, ma esiste questa distinzione fra un'immobilità di perfezione che non subisce macchia, la veste inconsutile del cristianesimo, e le lacere vesti delle singole cristianità, per dirlo in metafora. All'interno di queste il movimento è di perfezionamento che alla somma complessiva, insomma più e meno, cioè, però significa sempre un avanzamento, un progresso, forwards. E Balbo ha preso questo quadro del sembrare essere, e questo che è abbastanza platonico, ha preso coscientemente, nonostante ha condannato quasi la filosofia. No. Io credo che non si possa leggere queste pagine che hanno, nonostante la volontà di fondarsi storicamente, hanno un tono profetico, credo che non reggano se noi le sottoponiamo a delle richieste di rigore di questo tipo. Non c'è una vigilanza così ferma nella propria... Sarebbe molto bello, vero? Ma non c'è, non conosceva. Il dottor Moretti? Alcune questioni di dettaglio, relative in parte anche a mie momentanee lacune. Quando si parla di riforma... Io di lacune ne ho un'infinità nella costruzione di questo testo. Non... Quando si parla di riforme, riforma quel momento negativo, sì. Si cita espressamente la moneta, la moneta del saggio sull'indifferenza in materia di religione, perché quella è una fonte curiosa di tutta una serie di prese di posizione in materia, dall'apologia reazionaria dei secoli barbari al padre Costantino Martini a Gino Capponi, che individuano regolarmente la riforma come un momento negativo che rottura nel progresso possibile dell'Europa cristiana, e si rifanno invariabilmente a... Lentamente, perché non capiscono tutti, per favore. Una seconda cosa era riferita sullo scritto del 38 sulla storia delle città italiane. Il segno della sua posizione che valgo propenda vagamente per la mia visione, che però si richiama anche una serie di esempi e suggestioni difficilmente conciliabili l'uno con l'altro, e fra i quali a questo punto bisognerà scendere, e già molti altri storici italiani sceglieranno. Allora, la preferenza per visione significa medioevo latino, borghese, urbano, e filosofia della storia orientata in questo senso, è netta, oppure in fondo Balbo cita una serie di esempi di storici non italiani solo per insistere sulla retratezza della cultura italiana in testo. Cosa? Ho capito bene. Infine una terza cosa, così da risorgimentista di formazione, relativa anche ai dibattiti della prima giornata. Forse si forza un tantino, quando si parla del problema nazionale di storiografia nell'Italia e poi in Italia, il discorso in termini appunto di nazione e unità. Quello che sta a cuore realmente allora e anche a Balbo è il problema delle discendenze. Certo. Molto più facilmente si concilia in quadro di civiltà europea e di certo. Nazione. Certo. Sì, rispondo rapidamente ai tre punti. Lamennais. Balbo conosce Lamennais, ne ha la immagine che ne ha la cultura cattolica, diciamo, italiana ortodossa di quegli anni. Lamennais è un traditore che ha abbandonato la Chiesa per il razionalismo. Il razionalismo è il tarlo interno, erede di quelle deprecate filosofie antiche, che continua ogni tanto ad emergere nella Chiesa cattolica senza avere alcuna possibilità di successo. Lamennais poi è collegato in un fronte abbastanza significativo con un altro che si propone le versioni del cristianesimo, Saint-Simon, l'autore di Nouveau Christianisme, quello che si illude di poter fondare un nuovo cristianesimo e non capisce niente del modo di procedere in realtà delle società cristiane. Lamennais, Saint-Simon vengono poi posti in riferimento con quello che col passare degli anni diventa uno dei movimenti contro cui Balbo prende continuamente posizione. Quello che ci si vede guardando soltanto alla rivoluzione francese. Quindi c'è un atteggiamento positivo nei riguardi del Settecento, ma non il Settecento dei filosofi, il Settecento dei principi, il Settecento delle corti che cercano di innovare la società, il Settecento insomma dell'assolutismo, illuminato direi. E il Settecento forse anche del cattolicesimo illuminato, Muratori. Sì. Muratori è la grande figura del cattolicesimo illuminato, e credo che Balbo sia proprio cresciuto in questa Frequentage, dass er eben in questa tradizione des wir nennen es katholische Aufklärung, mein Freund Venturi ist immer böse, wenn ich sage katholische Aufklärung, aber ich glaube den Termin cattolicesimo illuminato viene accettato anche in Italia, quando si dice illuminismo cattolico. Certamente direi che il discorso di Balbo, il discorso storico di Balbo, non è un discorso forte. Quello che Balbo permette cioè quello che ci fornisce la lettura di queste opere di Balbo, che hanno avuto poi una sorta particolare, delle meditazioni storiche, lui ha pubblicato la prima parte, non ha mai scritto, insomma, le 20 meditazioni relative alla storia antica, non ha scritto le meditazioni relative alla storia moderna, ha semplicemente fornito nella